America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Beh, oggi vorrei tornare sul nostro tema caldo, sul nostro caso, quello che devo dire mi ha colpito molto, cioè il caso di Paolo Facchinetti, il camionista che vuole lasciare l'Italia per venire in America per trovare un futuro migliore per i suoi figli e vuole venire a fare il camionista. Ci sono delle cose che ha detto Facchinetti che mi hanno colpito. Ho con me ai microfoni di America 24 Luigi Zingales, economista italiano che lavora a Chicago. Ecco Luigi, se posso farti una prima domanda, c'è un momento in cui Facchinetti, raccontando di questa sua esperienza americana, dice che mentre si trovava su questo camion e avanzava con questo camion per le strade americane ha provato un senso di libertà. Ecco, io credo di aver capito cosa voleva dire, perché quando sono arrivato da studente qui in America ormai tanti anni fa, beh, devo dirti, questo senso di libertà l'ho provato un po' anch'io. Ci si sente più liberi, quasi ho avuto una sensazione come se ci fosse quasi una vacanza rispetto a quelle che erano le regole, le tradizioni, certe rigidità in cui ci si poteva sentire immersi in Italia. Tu anche sei stato qui in America, sei venuto anche te da studente. Ecco, condividi quello che dice Facchinetti, e cioè che forse qui si respira più aria di libertà che da noi? Questo negli Stati Uniti c'è, io l'ho sentito fino al momento in cui sono arrivato qui e mi ha dato al tempo stesso un eccitamento enorme e anche un fondo di paura, perché in realtà l'Italia ha questo grosso vantaggio che uno può sempre giustificare i propri fallimenti per l'inefficienza del sistema. In un mondo in cui tu hai tutte le opportunità, se non riesci è solo colpa tua. Quindi c'è questa duplice cosa della grande sfida che è elettrizzante e anche un po' fa paura. Ecco, però io cito, ho letto con interesse un articolo che hai scritto sul nostro giornale non tanto tempo fa parlando di Strauss-Kahn. E tu hai sottolineato, devo dire, con grande lucidità una serie di differenze che ci sono fra i due sistemi paesi e direi anzi forse fra l'Europa e gli Stati Uniti. E ti leggo una cosa che hai scritto, è la differenza tra chi si sente suddito e chi si sente cittadino, parlando di Strauss-Kahn e dei problemi che lui ha avuto e delle reazioni diverse che ci sono state da una parte e dall'altra. Che cosa volevi dire con questo? Beh, c'è secondo me un diverso approccio nei due paesi, che si vede in maniera molto chiara anche nell'educazione dei figli, soprattutto l'educazione dei ragazzi a scuola. Da noi l'educazione è improntata all'obbedienza verso l'autorità. L'autorità si rispetta e fondamentalmente non si pone in questione, mentre negli Stati Uniti c'è quasi un diritto a chiedere conto di come l'autorità viene esercitata, quindi l'autorità è sempre sfidata in maniera non necessariamente violento o provocatorio, ma viene domandato conto di quello che l'autorità fa, e c'è un diritto-dovere di denunciare la persona che sbaglia. La denuncia è un fatto, secondo me, è un bene pubblico, perché io quando denuncio un fatto, adesso ipotizzando che Strauss-Kahn abbia fatto effettivamente quello che si dice che abbia fatto, denunciare una persona del genere ha un effetto positivo su tutte le altre donne che non saranno sottoposte allo stesso rischio. La persona che fa la denuncia sopporta un costo non indifferente, tanto che appunto la giornalista francese che apparentemente era stata assaltata da Strauss-Kahn ha detto: io non l'ho denunciato perché non volevo essere per tutta la vita la donna che ha denunciato Strauss-Kahn. Quindi esiste un costo personale, esiste un beneficio pubblico, è qui dove delle norme civili di responsabilità aiutano a superare questo contrasto. Se uno ha una visione molto del particolare, dice: a me non conviene, ergo non lo faccio. Mentre negli Stati Uniti c'è più questo senso di diritto-dovere. E allora parliamo un momento dell'Italia. Tutti ci lamentiamo, diciamo che l'Italia è un paese chiuso. E se potessimo aprirlo, secondo te quali sono gli ingredienti che si potrebbero usare? Se tu avessi la bacchetta magica, che cosa faresti? Qual è il male, diciamo, la causa, e qual è il rimedio? Beh, secondo me il male è il cercarsi di chiudere per proteggersi. Cioè, secondo me, soprattutto la classe dirigente italiana si sente debole rispetto a un mondo che è sempre più globalizzato, in cui l'Italia alla fine conta sempre meno, e sentendosi debole la reazione è quella di chiudersi al mondo esterno. E questo, ovviamente, la chiusura rende ancora più impossibile un sistema meritocratico, perché la meritocrazia si basa su una forte spinta verso l'efficienza. In un sistema chiuso non c'è propulsione verso l'efficienza, anzi c'è il desiderio di proteggersi l'un l'altro, e quindi diventa un circolo ristretto, una casta, piuttosto che un sistema meritocratico. Quindi questo, secondo me, è il vero male. Come cambiarlo, secondo me, dal punto di vista economico, con una maggiore apertura, con capendo che il nostro futuro non è un futuro di rifiuto della globalizzazione, di quello che succede fuori da noi, ma di un'integrazione e di un'esaltazione anche delle nostre differenze, dei nostri vantaggi comparati, perché l'Italia è e rimane un paese meraviglioso. Questo, secondo me, non dobbiamo dimenticarcelo. If we can uncork Italy, dicendolo in inglese, se possiamo togliere il tappo che tiene l'Italia, può esplodere in una straordinaria dimostrazione di creatività, di entusiasmo, di forza. Invece sono tutti così, un po' a guardarsi gli uni con gli altri. C'è questa sensazione che se qualcuno ha successo non viene apprezzato. In America, se qualcuno ha successo, viene ammirato, viene apprezzato. In Italia no, c'è risentimento nei confronti del successo del vicino. Ecco, come si toglie questo tappo? Purtroppo non è che si tolga dalla mattina alla sera. Cioè, perché in Italia chi ha successo viene guardato con sospetto? Perché la maggior parte delle volte chi riesce non riesce per bravura, ma riesce per amicizia, per appoggi politici, cose di questo genere. Quindi per cambiare le aspettative di un popolo, di una nazione, ci vuole tanto tempo. Quindi tu mi stai dicendo che il nostro camionista ha ragione, visto che le cose non cambieranno presto, tanto vale che venga in America per dare un futuro migliore ai suoi figli. Purtroppo è così, cioè esiste quella che qui si chiama una trade-off tra exit and voice, cioè è che quando uno ha la possibilità di uscire, invece di stand up e parlare e cambiare le cose, esce e quindi riduce anche la pressione al cambiamento. E questo, secondo me, è un rischio serio dell'Italia. I migliori manager italiani lavorano all'estero. La fuga dei cervelli non è solo una fuga alla ricerca di opportunità di ricerca che l'Italia non dà, ma anche delle opportunità di crescita, di libertà intellettuale, di cose che l'Italia non dà. Quindi è vero che esiste questo rischio che alla fine l'Italia in qualche modo si chiuda ancora di più, perché le persone migliori se ne vanno via. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di sogni americani, e dunque a tutti coloro che sognano l'America voglio dedicare una grandissima canzone che tutti conosceranno, tutti, ne sono sicuro, dei Mamas and Papas, California Dreaming. Stopped into a church, I passed along the way. Well, I got down on my knees, and I pretend to pray. You hear the preacher like the call, he knows I'm gonna stay. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.